la 1, la 2, la 3 chianchella, la 4, la 5, la salsarella, pricchie, e procunta, sempre che a 16 su. No, si capisce. Come al solito manca la metrica. La 1, la 2, la 3, chianchella, la 4, la 5, la salsarella, pricche, prote, pricche, prunca, crunta, prunca, no. Cacunta. Sempre qua? A 16 su, ah. Ma che? Ma non so, è una filastrocca degli ascoltatori, Giorgio, Tito e Luisa. Tito, la 1, la 2, la 3, chianchella, la 4, la 5, la salsarella, pricche, e propricche, e procunta, sempre che a 16 su. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Guarda qua, cos'è le questa? Il nacchere. Non è una nacchera, vabbè. Natale si avvicina, la religione quindi entra nelle nostre vite, riempie le nostre vite, però il problema è quando arriva Paolo Brosio in televisione, a me la religione a un certo punto comincia subito a puzzare un po' di fasullo. Perché? Diciamo perché, Drago. Perché, dai, Paolo Brosio adesso è tutto preso da questa cosa della Madonna, di Medjugorje, è un po' la banalizzazione di tutto, della religione, della fede, perfino dei miracoli, delle apparizioni, cioè Paolo Brosio, come dire, addirittura ha svilito un po' l'immagine della Madonna. Secondo me la Madonna potrebbe far causa a Paolo Brosio, sì, forse sì, per quello che ha fatto. Sentiamo un attimo Paolo Brosio come si comporta. Grazie a un certo punto a una persona, io ho cominciato a voler bene una ragazza che mi ha un pochino tirato fuori da certi pasticci in cui ero finito, perché quando imbocchi certe strade che sono molto scure, che sono dentro una galleria, che sono a senso unico e che in fondo c'è un bel muro e te ci vai a una certa velocità e dopo non riesci a frenare, vai a sbattere a destra e a sinistra e dopo diventa difficile. Però di cosa parlava? Appunto, ha fatto un incidente con la macchina in un tunnel. No, forse parlava d'altro, hai sentito che tirava su col naso, secondo me alludeva. Ma cosa? A cosa? Al tunnel? E ora bambini, ricreazione! Voi due? No, non sapete l'ultima? No, uè, allora una cosa. Non si capisce cosa dici, stai calmo. Ma Miro Alberto, piano. Sei sempre agitato. No. Eh beh, perché ho sempre qualcosa da comunicare. Vabbè, è vero, No. Oddio, sempre. Stavolta è una cosa seria. Sì. Ma sapete che rischio di passare le vacanze di Natale alla Diaccio? Ma che parola è? Dov'è? Diaccio, in Corsica. Sì. No, vuol dire in mezzo alla strada. No, è alla Diaccio. Vabbè, adesso voglio dire, in che senso? Sei diventato homeless? Homeless? No, mica mi sto inventando niente. Homeless. E poi, vabbè, in realtà alla Diaccio, ma sul balcone, cioè non in mezzo alla strada. Ma quale balcone? Cioè, le vacanze di Natale sul balcone? No, come, dai, ma non mi prendete come in il giro. Cane che fa la pipì in casa, lo metti lì. Tito, no, tu non vai. Però finisce giù il balcone sotto. Ma siete gli unici a cui posso chiedere aiuto. Dai, allora, cosa c'è? Dai, spiega. Allora, i miei genitori ultimamente hanno la fissazione dell'inquinamento, no? Il problema dell'inquinamento, dello smog. Beh, fissazione, no? Insomma, qui a Milano soprattutto le cose vanno male, quindi. Eh no, ma no, lo smog è quello della strada. L'inquinamento domestico, casalingo. No, in che senso? Sì, no, ma c'è, è vero, capo. Ci sono, no, bisognerebbe stare attenti perché i tubi del gas, l'acqua ossigenata, lo smalto per le unghie, smalto i profumi, unghie, lo spray, insomma, fanno male. Cioè, nelle case a volte si respira un'aria che non è. Questi dicono che c'è la formaldeide che è nelle colle dei mobili, no? Beh, però i mobili. Poi i prodotti per la pulizia, acidi, robe, è un inferno, secondo loro. E quindi? La soluzione però non è che li devono mettere sul balcone a respirare l'aria avvelenata di Milano. Cioè, è meglio quella della casa. Sai come facevano quelli di Legambiente che mettevano fuori le lenzuola a vedere quanto si sporcavano, prendere l'inquinamento atmosferico. Adesso mettono fuori me. Infatti. No, va bene, che c'è una logica, eh. Sì. Siccome loro dicono lo smog che c'è nell'aria fuori non dipende da loro, no? No, loro non ci possono fare genitori. Niente. Invece l'inquinamento domestico è una loro responsabilità, sono genitori. E quindi? Allora è questo che interessa, loro non vogliono avere senso di colpa. E quindi ti mettono sul balcone, ma non quindi possono. Quindi per scaricarsi la coscienza hanno deciso che devo stare sul balcone. Però mi hanno comprato una cuccia tipo per cani, no? All'Ikea. Ma no, ma tutta colorata. Ma cioè. Sento il feltro, cioè, da quel punto di vista è anche funzionale. Però sul balcone fa freddo. Come si sta? È una cosa terribile! Sì. Come si sta, dai, farà freddo, no? E in più, no, guarda questi qui! Siccome fuori respira lo smog, sì, Però sono tre giorni che fanno protesta, si sono incatenati sotto Palazzo Marino. Ma i sempre i suoi genitori? Palazzo Marino, scusa. Palazzo Marino è la sede del comune, tu Drago sei provinciale. Ah, capito. Ma scusa, scusa, mi ricordavo che sei provinciale. Comunque, sono là sotto per protestare contro l'inquinamento. Sì. Tipo uomini sandwich, no? Con una mia foto grande. Mentre tossiscono la cuccia. No, ma scusa. Come dire, guardate qua cosa combina lo nostro figlio che respira, per forza mi mette sul balcone. Ma scusa, ma io, no, uno direbbe, no? Ma non potrebbero fare, che ne so, usare prodotti naturali per la casa e tenerti in casa. Ma no! E io è quello che dico anch'io! Vedi, mi venite incontro! Ma mia madre non vuole rinunciare ai profumi, allo smalto per le unghie, alla lacca, all'acido muriatico. Quale acido? Mio padre, poi, che nel suo tempo libero, stranamente, fa un po' di bricolage. Fa lavoretti con legno. Sintetizza le metanfetamine. Vitamine, no, fa? E non vuole spendere? Usa le colle tossiche, le colle cinesi, no? E quelle costano pochissimo. Ecco, allora basterebbe far quello, cioè però, smettere di fare quelle cose lì. No, non voglio rinunciare! No. E io sto sul balcone. A Natale. Ma e tuo fratello? E mio fratello è della nonna. E lui sì. E lui in campagna della nonna respirare l'aria buona. E tu? Io devo fare l'uomo sandwich. No, tu non sei l'uomo sandwich, sei la foto del panino, però la gente mi guarda il pane. Il pane, sì. Perché l'uomo è l'interno del sandwich, è il prosciutto. No? È il prosciutto, invece. Vabbè. Quindi tu sei il panino. Io sono il panino. Gildo, sei venuto a parlare fuori il palazzo, sono venuto con un panino. C'è il panino con le acciughe, con questa cosa che. Tipo pasta d'acciughe? Pasta d'acciughe! Pasta d'acciughe, ce l'hai? Sai! Il panino? No, tu dico. Tu! Il panino, io ho chiesto, ho fame io, tu hai fame? Io ho fame! No, io ho fame. Io. Io faccio. La faccio! È Natale. E passa Babbo Natale. Io la macchina. A pedali. E ho la Porsche. A pedali. Chiedo asilo. Oh, a Natale bisogna fare l'albero con le palle, con le lucine. A Natale, abbiamo già detto, alla nausea bisogna fare il presepe o presepio, perché vabbè, è una tradizione più italiana. Dai, facciamo tutte e due, però cominciamo dall'albero. Mm. Esiste una tecnica. Per far cosa? Per fare l'albero. Ma va, come, dai, no? Fase 1. Metti come fase vuoi. Fase 1. Scusa, e prendi l'albero, poi metti degli addobbi. Numero 1. Allora, prima di tutto l'albero va montato nella vasca. Ma come? E bagnato con la doccetta. Ma non è vero. Così i finti aghi di plastica diventano più lucidi e sembrano più folti. Ma questo proprio non è vero. Io non ho mai fatto. Ma tu infatti, ma lascia stare. Poi, seconda fase. Si asciuga col phon. Ma come? Sì, si asciuga col phon per accedere alla fase 2 bis. Perché sono, hai capito? È molto così. Molto che molto è l'addobbo. Vabbè, quello è facile, si l'addobbo. Le palline, a seconda di come ti piacciono. No, non sei preciso. Allora, quando ero a scuola svizzera ci hanno insegnato che c'è un ordine infallibile e bisogna seguire questo ordine per avere un albero come si deve. Come si deve. Vabbè. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Fase 2, allora, intanto l'addobbo. Devi cantare, parlare con l'albero, sai che parlare con le piante. Ma sei di plastica. Ma non importa, capisce, se gli parli in tedesco capisce. Allora, prima si mettono le lucine. E si bada che siano anche vicine al tronco, che non si vedano i fili elettrici, capito? Le file tronco di plastica, vabbè, di plastica. Tronco, però. Poi si mettono le ghirlande. Le ghirlande, che sarebbero cose? Quelle... Le ghirlande. Le ghirlande. Bah, buon dizionario, ghirlande. Allora, poi si rimpolpano un po' i rami e gli aghi dell'abete con le ghirlande, ma anche con le luci tutte nascoste dentro. Si fa uno sbuffo, ma come scusate. Deve sbuffare l'albero. Ma voi per cominciare a fare l'albero, cominciate a Pasqua in Svizzera e poi finite a Natale. Sei pressapochista. Pressapochista. Quello sì. E poi si mettono le palle, Drago. Le palle alla fase 3. Bisogna avere scrivi le palle, no? Le più grosse in basso, le più piccole in alto. E man mano che si sale devono leggermente decrescere. Poi per ultimo il puntale. Ecco, nient'altro, no? E c'è la fase 4. Ma come? Pure la fase 4? È il tocco finale, Drago. Bisogna girare l'albero in modo che gli ospiti non vedano le prese di corrente e tutti i chip, i microchip, i calcolatori per fare accendere e spegnere le luci in maniera... Vabbè, i fili, insomma. Ma i fili, chip e microchip. Ma chip e microchip. Ma i trasformatori, ma cosa vuoi che sia? I trasformatori, dai. Bisogna nascondere tutto, le spine, le ciabatte, hai capito? Così sembra più naturale, cioè sembra un albero cinese naturale. Naturale. Cinese, però. Con le luci naturali. Come l'avesse fatto Babbo Natale cinese in persona. Drago, questo, il Natale per me è questo, cioè zaspe, sì, la tuta da sci, un po' cheap, dai, K2, vabbè, anni 80, ma certo, sono? Last Christmas, sono gli sci, sì. Sto parlando del video di Last Christmas con George Michael, tutto mesciato, che va su in funivia, cioè io adesso, invece che essere qua con te, vorrei veramente essere in funivia con George Michael, Con la faccia schiacciata contro il vetro appannato? In che senso? È perché lui...